sappiamo poco o nulla della Nigeria. Spesso l'alterità fa paura, crea scompiglio nelle nostre facili e sterili schematizzazioni con cui solitamente codifichiamo la realtà. Ma come fare quando la realtà è talmente tanto lontana dalla nostra che a fatica riusciamo anche solo a immaginarla, quando ci si scontra con parole che a fatica riescono a dare conto pienamente di quanto può essere diversa dalla nostra quotidianità delle donne che ci stanno davanti, quando, oltre alle parole, bisogna reimparare a cogliere sguardi, gesti, segni del corpo che narrano di vite dall'altra parte del mondo, in un'Africa che è ancora terra di conquista e di colonizzazione, in cui l'estrema povertà di tanti è fonte di grassa ricchezza per pochissimi. Allora, abbiamo scelto oggi di parlare della Nigeria a partire di un fatto successo da più di un mese, visto che era il 14 aprile di quest'anno, il fatto che più di 200 ragazzi di una scuola nel nord della Nigeria è stata rapita da un gruppo di estremisti islamici, Boko Haram, e è un fatto abbastanza eclatante che la Nigeria non ha pubblicato subito perché temeva infatti l'intrusione delle forze internazionali, dell'intrusione in questa vicenda delle politiche internazionali. E poi piano piano la notizia è uscita, noi l'avevamo detto al GR, e è stata amplificata, e abbiamo, cioè, come da solito, questo fatto che arriva sul piano della la stampa internazionale e la televisione, un fatto che riguarda una violenza che è stata fatta contro delle donne, ci accesa una piccola luce, ma perché a questo momento? Perché c'è strumentalizzazione o no? Perché si sa infatti che non è nel Nigeria non è pace. Sì, infatti abbiamo deciso di parlarne, appunto, innanzitutto perché ne abbiamo già parlato nei nostri giornali radio, abbiamo dato la notizia prendendola da fonti, diciamo, alternative, quando ancora, appunto, non era arrivata ad assumere la tale rilevanza che poi ha preso sulla stampa internazionale, e abbiamo deciso di riparlarne perché ci è proprio venuto un dubbio, ci si è accesa una lampadina, un punto di domanda: perché se ne parla così tanto in questo momento, quando sappiamo benissimo che attacchi contro le scuole di ragazze avvengono in tanti paesi in cui gli integralisti islamici sono forti e hanno il potere, dall'Afghanistan al Pakistan, in cui sono state distrutte in poco tempo più di 1000 scuole e così via, no? Per cui questo noi l'abbiamo sempre detto, quando c'è stata la guerra in Afghanistan ne abbiamo parlato tantissimo, e anche nel periodo successivo, appunto, quanto le scuole per ragazze fossero bersagli, no? Per cui in questo momento il fatto che ci sia questa campagna, si chiama Bring Back Our Girls, ci pone delle domande sull'utilizzo della violenza contro le donne per altri scopi, sulla strumentalizzazione. Sappiamo che la Nigeria è un paese strategicamente molto importante, ne sappiamo poco perché, appunto, conosciamo meglio forse la realtà del delta del Niger, perché ci sono stati scritti libri, perché abbiamo incontrato delle donne, delle combattenti all'interno dei CIE che ce ne hanno parlato, per esempio. Sappiamo che è uno dei paesi strategicamente più importanti per il petrolio, in cui multinazionali da 20-30 anni fanno razzia delle risorse, distruggono il territorio, ma veramente distruggono distruggono il paese, e poi di conseguenza sappiamo che sulla vita delle donne di quella parte della Nigeria appunto la conseguenza è la tratta, è il trafficking delle donne, è la prostituzione forzata. E sappiamo un po' di meno forse su Boko Haram, sappiamo un po' di meno sul nord del paese, però appunto il collegare il fatto che sulla stampa internazionale abbia preso così tanta rilevanza la storia di queste ragazze, e il fatto appunto che la Nigeria è un paese di razzia coloniale, insomma ci viene da collegare questi due aspetti. Sì, soprattutto perché comunque queste ragazze, come tantissime in tantissime situazioni, queste ragazze sono comunque in mezzo a dei interessi sia di Boko Haram, che si serve di questo fatto eclatante per darci una visibilità sul piano internazionale, sia alle interessi occidentali che provando a farci credere che ci vanno lì a salvare queste ragazze, a salvare i diritti umani, quando comunque non è assolutamente il caso. E dunque le donne sono un mezzo un po' preso come in sandwich, potremmo dire. E per approfondire un po' questo abbiamo pensato di sentire una compagna che viene dal Nigeria, e che dunque conosce sia la situazione del paese sia la situazione delle donne, e soprattutto le lotte delle donne, in modo di darci una vista un po' più larga dell'evento, della vicenda. Sì, proveremo a farle qualche domanda. Un po' di musica, così la chiamiamo. Forse potresti dire da dove veniva il primo piccolo pazzo, il Pietro. Sì, ho letto un piccolissimo stralcio da Storie di Ponte di Frontiere, che è una pubblicazione a cura di Be Free, cooperativa contro la tratta, la prostituzione. È una cooperativa di compagni che hanno lavorato moltissimo nel CIE di Ponte Galeria, e diciamo che la pubblicazione è proprio un restituire quel lavoro di relazione con le donne recluse dentro il CIE. C'è anche all'interno di questo librino, di questa pubblicazione, c'è anche una lettera di Iso, che è la compagna che stiamo andando a chiamare, che ha fondato in Italia l'associazione La Ragazza di Benin City. Ancora Neka? Sì. Pronto? Mi senti? Pronto? Sì. Ok, noi ti sentiamo perfettamente, grazie. Dunque, grazie che ci hai dato la possibilità di chiamarti, perché comunque ovviamente tu conosci benissimo la situazione della Nigeria. Sì. La cosa che volevamo chiederti per prima cosa era di parlarci un po' della situazione delle donne in Nigeria. La situazione delle donne in Nigeria, a meno quello che ho vissuto io, mia madre, mio nonno, a meno i miei popoli, i miei antenati, sono la situazione contraddittoria, insomma, che determina a volte le situazioni dei giovani. Noi siamo giovani e dovrei emigrare. Un paese, Nigeria è un paese innanzitutto ricchissimo, non solo economicamente, di cultura, è un po' troppo. Noi almeno noi giovani non ci è concesso questo, opportunità di vivere di quella ricchezza. Di confronto emigrare, di vari problemi di mutilazioni sessuali, di spose, bambini, e traffico di organi, e traffico di esseri umani. A cui sono finita anch'io nel 2000, e questo sono quelle problemi che viva Nigeria, apparentemente ricca. Ok, perché le ricchezze sono rubate, sono prese da altri e non vanno al popolo, è questo, no? Diciamo sì, che questa ricchezza è stata distribuita male, i ricchi sono ricchissimi, i poveri sono poverissimi. Ok. E diciamo che oltre 20 anni, che in Nigeria a vendere i suoi figli in Occidente attraverso l'organizzazione criminale che sfrutta le donne, sfruttamento sessuale, maschi a fare i lavori che non gli permette di vivere dignitosamente. E quindi quello che sta succedendo in Nigeria oggi è uno dell'aspetto di varie contraddizioni che vive la Nigeria, e a volte che nessuno ci spiega a questo momento, che sembra quello che è appena successo è gravissimo, una cosa veramente grave, però l'Occidente non deve far finta, non deve essere ipocrite che è unica, anzi è una cosa come fosse una cosa nuova, è una cosa mai successo. Questo non è vero, questo, ma 200 più sono stato rapite da questo valore, da gruppo Boko Haram, però da oltre 20 anni sono 200.000 che sono state trafficate solo in Italia. Senti, io ti volevo chiedere, per capire anche meglio, contestualizzare, che possibilità c'è per le ragazze di studiare in Nigeria? No, perché queste ragazze andavano a scuola. È pochi, le possibilità di studiare è un privilegio, non è tutti che possono permettersene. Ecco, quelle che possono studiare, certo che possono avere gli strumenti in più, non definire sottomessa come donne spesso vengono trattate in quella parte, e addirittura di impedirle questa opportunità, è ancora più offensivo, diciamo, per un punto di vista come donna, come io la vedo. Quindi colpire le poche ragazze che hanno la possibilità di andare a scuola vuol dire spingere la maggior parte nell'unica direzione possibile, che è quella del traffico delle donne, della prostituzione forse anche. Cioè forse è un messaggio anche per tutte le altre donne, non solo vengono colpite queste 200 ragazze, ma un messaggio per tutte le ragazze della Nigeria. No, peraltro. La domanda era di sapere se il modo di Boko Haram, per esempio, di colpire queste 200 era anche un messaggio verso tutte le altre ragazze, spingendo anche loro di più, o comunque lasciando come unica possibilità, o sono poi come bersaglio della tratta internazionale, della tratta delle donne. Perfettamente, che spesso non dimentichiamo, diciamo, oggi è ancora quello che sta succedendo in Nigeria, nessuno se le spiega ancora meglio, e allo stesso tempo le donne che Boko Haram, diciamo, almeno dai miei familiari, di sapere come stanno andando le cose in Nigeria, che moltissime donne che sono state rapite sono anche sono anche musulmani, no? Ce n'è bisogno di convertirne all'Islam, però allo stesso tempo la stanno utilizzando come un strumento politico, offensivo politico, quindi le donne di essere utilizzate in questo ancora come un strumento, ancora come una merce di scambio, e questo, diciamo, e mentre che quelle che sono in Europa schiavizzate cercano di uscire fuori di trovare ancora in quella situazione in Nigeria, non è assolutamente tollerabile. Però mi lascia dire ancora un'altra cosa, che in Nigeria in sé di non riuscire a gestire un problema come questo, richiedendo non so tutto quegli anni che abbiamo fatto per liberarsi da colonialismo inglese e francese, dobbiamo ancora, non siamo in grado ancora di affrontare i problemi, io dico semplice così da soli, e vogliamo gestire il petrolio, altre risorse che Nigeria ha. Come una nigeriana, come donna, innanzitutto io vorrei che deve essere la Nigeria a liberarsi queste donne. Sì. Essere Nigeria in grado di liberarsi queste donne è un paese che è degno di essere chiamato un paese. Io ci avrei anche se c'hai tempo, due domande. E altre donne che ci sono in Europa, che in Nigeria non si fa praticamente niente. Infatti ti volevo chiedere, ci sono associazioni di donne che lottano? C'hai un po' di contatti con, delle donne che si rivoltano, o che comunque mettono in piedi una resistenza in Nigeria? Ma ci sono vari gruppi, il primo tempo ci sono vari gruppi di queste donne, di questa madre, però da tempo ci sono le donne che stanno raggruppando di chiedere che fine abbia fatto i loro figli in Europa. Sì. Sono 200.000, quello che dicevo prima. Dove queste sono donne quelle? Stanno chiedendo che se ne abbia fatto i loro figli in Europa oltre 20 anni, ma no. Nella Nigeria non mi pare di questo problema la sta occupando, la sta dando risposte concrete. No, in questa direzione, per quello che mi sembra un po' diciamo ipocrita, diciamo, di quello che non so, anche l'Europa, anche l'Italia, che in questa situazione, in mentre che quelle là stanno vivendo in quelle condizioni, da qua li respingiamo, li nega anche il diritto, diciamo, quello che riescono a chiedere la protezione, non gli diamo anche questa protezione. Impressionante, visto così, che c'è tutto un baradam intorno a queste 200 ragazze, infatti rapite, un atto violento e importante e grave, e come dici tu, 200.000 donne sono scomparse, sono trafficate per colpa dei stati europei, cioè, e da questo nessuno ne parla. Di questo tendiamo di avere memorie corte, come ritrattiamo questo questo problema direttamente in vari paesi europei. Io parlo in caso dell'Italia, visto che vivo in Italia, non mi pare che il traffico, diciamo, delle donne venga punito severamente, o nel stesso tempo almeno intendo di proteggere quelle donne che chiedono la protezione, che chiedono la tutela delle Boko Haram che si sono in Europa. Sì, è il minimo. E si ritrovano essere respinta anche quando chiedono, anche quando hanno il diritto di essere protette. Dunque sì, un messaggio. Quindi non so se sono risposta alla tua domanda. Sì, ci hai risposto benissimo. Mi viene anche a chiederti un'altra domanda, perché è molto interessante, e questo lo rideremo ancora. Le donne vittime di tratta hanno il diritto della protezione dei paesi occidentali, che comunque sono alla fine la causa del trafficking. E questo è un po' a parte forse, ma il Nigeria, nella zona geografica, ha una particolarità, o le paesi intorno succedono un po' le stesse cose con i vicini, non lo so, Niger? Nigeria è appunto veramente che ha confinato spesso con vari paesi africani, che sono nelle situazioni Niger da un'altra parte con Camerun, e quindi ci sono varie via di uscita, diciamo, di entrare e di uscire, e anche queste determinate tante problemi anche durante le guerre Biafra, da una parte de Ibo, dove una parte totalmente si viveva la guerra di Biafra, dall'altra parte e con Niger si rifugiavano almeno io non ho vissuto la guerra, diciamo, la guerra di Biafra, però mia nonna e mia madre me la raccontavano, la paura che vivevano nella faccia a chi fuggiva dalla parte di Biafra, che era anche confine con Benifici, perché chi passa da Biafra che vuole andare dall'altra parte deve per forse passare a Edo State, verso capitale. Quindi anche loro sì, non vivevano la guerra di Biafra, però li vivevano le terrori della faccia di chi scappava da quella parte lì, insomma. Posso farti un'altra domanda? Prego. All'inizio noi, quando abbiamo introdotto questo spazio, abbiamo parlato del fatto che in qualche modo abbiamo dei dubbi sul fatto che tanti giornali, tanta stampa, ci sia stata questa campagna internazionale con tante donne importanti e così via, che hanno parlato per bring back our girls, per riportare le ragazze a casa. Ecco, ci viene il dubbio sul perché, no? Perché appunto la situazione delle ragazze, come dicevi, è sempre la stessa, ci sono tantissime donne che vengono trafficate, però in questo momento forse fa comodo ai paesi occidentali portare l'attenzione su Boko Haram, perché Boko Haram è un nemico della stabilità politica in Nigeria e anche quindi della possibilità di continuare a sfruttare. Ma come dicevo prima, è uno di quelli, diciamo, le cose che non mi ci spiego ancora in questo momento. Non mi ci spiega perché, come fosse liberare le ragazze, anzi è quello che chiediamo anche in Europa, liberate le ragazze vittime della tratta. Però non ci pensiamo che sconfiggere le Boko Haram, come fosse tutti i problemi, che serie di contraddizioni che ho detto prima, che non ci sono, fa finta che non ci sono, fa finta che sconfiggere Boko Haram è finito tutto. Ecco, con questo, diciamo, manifesto e faccio quello per mettere a posto la coscienza, e dopo un po' non si parla più. E questo, le cose che non mi ci spiega, proprio le donne in prima linea, i potenti che stanno sostenendo, diciamo, quella campagna, e dove vivono, dove sono, diciamo, i metri che tutto accade in Occidente. Ecco che cosa non mi ci spiego ancora, ripeto. Sì. Quindi in Nigeria, quello che c'è attraverso il mio parente, le capitale, anche diciamo quello, anche news filtrato che non arriva in Occidente, però quello che succede nel capitale è che il governo ci dà i soldi alle madre per tornare nel loro paese, più casino facciano e meglio è. Quindi mi penso che questo è più un strumento che stanno utilizzando fine politica e economica, e dove tutti i paesi che abbiamo cercato di liberarsene si cercano di mettersi i piedi in Nigeria, non so, è grazie a Boko Haram, ritornando, che ne so, al colonialismo del secolo, anche se loro l'eredità l'hanno lasciato, diciamo, da quel colonialismo si è nato varie serie di problemi, come questo delle schiavitù che in Nigeria sta vivendo e che le hanno lasciate nell'eredità, che sarò come telespettatore, analizzatore, a vedere, di riuscire a capire cosa sta accadendo realmente nel mio paese. Io dico nel mio paese, allo stesso tempo è quello paese che io ho, come io sono uno di quelle, diciamo, di sua origine, sei in grado di proteggermi sia in Nigeria sia anche fuori dalla Nigeria. Iso, che grazie, mi sa se veramente era molto completo il tuo intervento, ti ringraziamo tanto. Non lo so se vuoi aggiungere qualcosa, ma comunque hai fatto proprio il giro di tutti i lati in pochi minuti. Ma non voglio fare contro campagna, e ecco, posso dire Save Nigeria Girls in the World. Come? Say it again. Save Nigeria Girls in the World. Liberate le ragazze, diciamo, nigeriane nel mondo. Sì. Ti ringrazio veramente tanto perché mi hai fatto capire delle cose in più da quando ho iniziato con questo spazio, veramente ti ringrazio di questo. E noi comunque continuiamo a seguire, non è la prima volta che ne parliamo, e grazie mille. Un abbraccio. Ciao. Sì, con molta lucidità, so che comunque ci ha spiegato anche perché non cadere in queste trappole super, è quasi pubblicità di lanciare una campagna su 200, una pubblicità ipocrita su 200 ragazze rapite, quando 200.000 donne sono scomparse dalla Nigeria, che sono state trafficate, rapite anche loro. In Europa, e lei parlava solo dell'Italia quando ha parlato di 200.000, e dunque Europa? Vabbè, comunque, comunque sembra... sono state rapite tantissime donne, e che cioè, questa non ha provocato molto emozioni da questi anni a livello internazionale. E dunque questo è sicuramente il primo messaggio, e il messaggio più importante che dobbiamo sempre noi avere in mente, per non infatti cadere queste eclatante, perché che giocano sulle nostre emozioni e su il fatto che facendo questo siamo a posto con le nostre coscienze politiche. Mi sembra che a seguito della telefonata con Iso, che anche la canzone di Neka che dice blood blood blood blood, sangue sangue sangue, prende un altro significato. Sì, ce la fai riascoltare un pochino? Ah, ma dai, sì, dai, sì. And I don't.